Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender head and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle head and the way you like the dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like the jacket. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Bentornati su Radio Lotto Tutto l'Anno, la radio pirata di Non Una di Meno Milano. Questa sera ci sono io, Marta, e con me ci sono Ari e Ludo. Ciao! Ciao! Ciao! E tanti auguri, Ari! Brava! Prima di tutto, buon compleanno, grazie. Arianna! Wow, che emozione! Gli auguri in diretta! E niente, che bello festeggiarti in radio! Sì, bisogna che lo dichiariamo subito. Come potete intuire da come siamo partite, sarà la puntata proprio del delirio. Puntata situazionismo, ma soprattutto felicità e baci di compleanno. Per tutte, tutti e tutto. Esatto, esatto. Chi sta compiendo gli anni in questo periodo, per chi no, per chi si preparerà a compierli. Un buonissimo non compleanno a tutto. Va bene, allora vogliamo ricominciare al solito dando un po' di contatti? Sì, certo. Chi parte? Se volete inizio io, Vai, vai. ricordando che ci piace ricordare ogni volta che la radio si costruisce anche dei contributi che tutte, tutti, tutti voi avete voglia di mandare in radio e quindi vi diamo prima di tutto i contatti di Non Una di Meno Milano che sta dietro alla Radio Lotto tutto l'anno. Parto con la mail nonunadimenomilano@gmail.com, c'è anche un blog nonunadimenoblog.wordpress.com. Per le più social c'è la pagina Facebook di Non Una di Meno Milano, ma anche un account Instagram e Twitter e il canale Telegram. Wow! Scrivete, scrivete, scrivete! Sì, e scusatemi, faccio una piccola interruzione ai contatti per dire che la ragione per cui ci sentite un po' così su di giri questa sera è ovviamente perché è il compleanno di Arianna, ma anche perché stasera c'è proprio posta del cuore, dediche a profusione, e quindi siamo gasatissime. Super. Che è una cosa bellissima che finalmente qualcuno ci mandi qualche dedica. Va bene, torniamo Perché serie. anche le Ah più no, timide, vai. Esatto, possiamo dire i più timidi di noi, a un certo punto scrivono forse e sembriamo fanno meno le cattive col passare del tempo. dediche. Va bene, torniamo 15 secondi di serietà. Allora, una delle cose a cui teniamo sempre, ogni volta che siamo in diretta, è quella di ricordare i contatti dei centri antiviolenza. Di ieri, di oggi, la notizia dell'ennesimo femminicidio proprio a Milano e quindi stasera, come sempre, ma stasera ancora di più, per noi è importante ricordare che il virus non ferma la violenza e proprio per questo è necessario gridare ancora più forte non sei sola. E quindi per ogni necessità il sito di dire dei centri contro la violenza, dire contro la violenza è disponibile e ci si trovano tutti i contatti di tutti i centri antiviolenza della rete in Italia. Il sito è direcontrolaviolenza.it. Su Milano vi diamo come sempre il numero di CADMI, della Casa delle Donne Maltrattate, che è lo 02 5501 5519, ma anche il numero nazionale contro la violenza sulle donne di genere che è il 1522. Sono tutti strumenti che possono essere usati per uscire dalla violenza. E adesso, se siete d'accordo, andrei avanti con obiezione respinta, Grazie. perché le compagne di obiezione respinta stanno facendo un lavoro pazzesco segnalando quelle che sono le strutture dove è possibile adesso compiere un'interruzione di gravidanza, segnalando che tipi di servizi sono attivi nelle strutture delle diverse città e la presenza o meno di obiettori. E ricordiamo i loro contatti che sono canale Telegram SOS aborto trattino basso covid trattino 19, la loro pagina Facebook obiezione respinta e la loro pagina Instagram sempre obiezione respinta. Le trovate alternativamente via mail a obiezione.respinta@canaglie.org o al numero di telefono attivo 24 ore su 24 331 96 34 889. E da stasera abbiamo anche un nuovo contatto da darvi. Wow. Perché il femminismo come l'amore si moltiplica. E, da questa settimana Non Una di Meno Milano ha attivato un nuovo spazio, uno spazio per rompere la solitudine, uno spazio dove è possibile fare due chiacchiere, raccontare quello che ci sta succedendo, condividere esperienze. Allora, le compagne di Non Una di Meno Milano ci tengono a, come dire, ribadire che questo non è, come dire, un servizio di specialiste, non siamo psicologhe, non siamo operatrici dei centri antiviolenza, ma proprio un luogo dove rompere la solitudine. Quindi, chiunque avesse voglia di, ha voglia o bisogno di essere così, di rompere la solitudine, può scrivere a raccontiamocela@autistiche.org e verrà richiamata da una compagna appunto per fare due chiacchiere. Grazie mille. Se siete d'accordo, ricorderei magari anche contatti specifici per il supporto psicologico. Sì. Abbiamo parlato nelle ultime puntate di salute mentale e quindi ci teniamo a ricordare anche questi contatti, che sono contatto della Brigata Basaglia, una brigata di solidarietà specifica per l'ascolto e il supporto psicologico, che si trova al numero 0282 39 69 15, attiva tutti i giorni della settimana dalle 8 a mezzanotte. Si trova anche su Facebook Brigata Basaglia. E poi vi vogliamo ricordare la pagina dove potete trovare un elenco di risorse gratuite online o via telefono di supporto psicologico in questa situazione. La pagina è al link xho.gitlab.io/supporto-psicologico-covid-19. E a questa pagina ci sono una lista di servizi gratuiti raggiungibili online o via telefono, di cui alcuni specifici, per esempio per persone migranti o straniere, come il servizio attivato in cinque lingue da UNICEF, Medicine du Monde e Asinitas, che è contattabile al numero di telefono 351 10 22 13 90. Un servizio specifico anche che per chi non ha un medico di base e ha bisogno di un consulto medico o psicologico. Oppure ricordiamo il pronto soccorso psicologico attivato da Mediterranea, Prodi e Lab Salute Popolare, che potete contattare su WhatsApp dalle 10.30 alle 19.30 al numero 392 89 59 198. E con questa carrellata direi che abbiamo finito i contatti. Grazie Ludo. Direi Grazie Ludo. che non sei sola, prende, come dire, forma in modo molto concreto e sempre di più con tutti questi contatti di supporto. Va bene, entriamo nel vivo della puntata. Entriamo nel vivo della puntata. Assolutamente. Abbiamo la prima dedica. Prendendo, diciamo, esatto, un tono diverso da quello che ha governato i contatti fino a qualche secondo fa. Parentesi seria, chiusa. Chiusa. Basta, finita, proprio chiusa nel senso che è finita almeno fino a venerdì. Va Allora, sì. bene. Perché non l'abbiamo anticipato, ma le più fedeli di noi, intendendo con fedeltà il senso più ampio del termine, sapranno che noi abbiamo all'inizio una serie di rubriche, le nostre Certamente. rubriche. Rubriche che sono, allora, ce ne sono due che sono le nostre storiche, che in verità va sempre a finire che si fondono in una, che sono la posta del cuore e ti dedico una canzone per cui le persone giustamente fanno delle dediche, ma a quel punto ci accollano pure la canzone. Che a sto punto forse anche noi potremmo cedere a fare una rubrica sola Esatto, e esatto. continuare con Così. due. Vedere se ci facciamo pervadere dal buon senso, cosa che non darei affatto per scontata. Poi abbiamo E una abbiamo anche la meraviglia. rubrica, Vai Ludo. scusami Marta, abbiamo anche la rubrica di interpretazione dei sogni, quindi mandateci i vostri sogni perché Chiarezza li interpreterà per voi e per noi. Esatto. E questa sera, così, presi dall'entusiasmo del compleanno, volevamo anche dirvi che se volete scriverci delle cose sul vostro compleanno, sul vostro non compleanno, sul compleanno di vostra zia, vostra nonna, del vicino strafico che vedete dalla finestra o non so che cos'altro, scriveteci e noi, come sempre, saremo la vostra voce. Scriveteci e cerchiamo di leggere in diretta. Wow, quello che Addirittura? ci e Bisogna che qualcuno commentare controlli la perché. mail in diretta, allora. Ah, No, ok. sì, Sì, facciamolo, no, facciamolo, si può fare. facciamolo, possiamo provare a farlo e sì, ok, Sì. ho fatto il passo che ho fatto entusiasmo. Proviamoci ricordandoci che oggi il prestazionismo è basso, quindi ci Bassissimo. proviamo, ma non sappiamo se ci riusciamo. Voi Usate i prendete. canali che conoscete per scriverci e poi la faremo meglio la prossima volta. Va bene, allora, dicevamo abbiamo subito una dedica, che forse è il caso che leggiamo o io o Ludo, poi capirete anche perché. Allora, se volete la leggo. Vai, Ludo. Allora, ci è arrivata questa dedica. Una dedica alla ragazza bionda che ho visto sotto casa in isola 2 settimane fa e che andava in farmacia. Quando andiamo a fare la coda della spesa insieme? Ci chiedono. Niente, come forse avete sottilmente intuito, la bionda in questione è Arianna. Chi mi conosce per me sa che la bionda con una passione per le farmacie è Arianna. Perfetto, benissimo. Comunque, insomma, insieme a questa dedica c'è anche una canzone E un'ulteriore è dedica, direi, in un'ulteriore realtà. dedica, esatto, questa la puoi dire tu, Ari, se vuoi. Sì, e la stessa persona che ha fatto questa dedica alla ragazza bionda con cui andrà a fare delle code della spesa insieme, ha dedicato la canzone che segue all'Ambrosia. Wow! Ah. E la canzone è A chi pravo se, e ora ve la facciamo sentire e torniamo in diretta tra pochissimo. Ciao! Sistema. Tornato proprio in bomba questo pezzo. Veramente, se volevate farci ballare, ci siete riusciti. Sapete che io non lo sento, il nostro voce in radio. Ora sì. Arianna, abbiamo comunque il microfono aperto. Scusate, io oggi non ce la faccio meno del solito. No, è Scusate. che succede questa cosa, no? Scusate, adesso stasera vale veramente tutto, perché la radio arriva in ritardo rispetto a noi, cioè ci sono alcuni secondi in cui ci perdiamo nell'etere e poi riappariamo miracolosamente. Comunque non volevo essere agente di disturbo dopo essermi attribuito una dedica, essermi fatto fare gli auguri di compleanno, volevo anche stare in diretta. Volevo stare in diretta e contemporaneamente ascoltarmi e in contemporanea ballare e essere anche ubriaca, grazie. È il Va tuo bene. compleanno, te lo puoi permettere. Sì, Ari, grazie, Ludo. vogliamo tutto, saremo tutto. Va bene, niente, svegliamo questo velo di mistero non velo. Vai. Grazie Pedro per la dedica e la canzone. Grazie Pedro, da tutte noi. Sì. Veramente. Bellissima. Va bene, allora, niente, questa sera ovviamente tra le varie cose parleremo di sesso, perché altrimenti non siamo noi. Sbaglio? Non so cosa vogliamo. Allora, questa sera una delle cose che vogliamo riprendere un pochino e in modo un pochino più leggero e divertente è la questione del sexting, perché questa quarantena ormai è infinita e a parte che ormai siamo stufe pure del sexting, però proprio per questo forse abbiamo bisogno di nuovi consigli. E fino ad ora ve ne abbiamo dati moltissimi, ma come dire, molto professionali, più come dire di sicurezza legale, di sicurezza, di supporto legale, invece stasera buttiamo in caciara. Sì, e anche aggiungo una cosa, oggi cerchiamo di condividere dei contributi che magari abbiamo raccolto nei giorni scorsi, appunto come dicevamo, stiamo cercando di raccogliere più contributi possibili di condivisione, non sempre riusciamo, e questo è anche un po', scusate, se avete mandato magari qualcosa che non siamo riusciti, ma poi cerchiamo poi di volta in volta di trovare degli spazi come oggi per riprendere alcuni temi che ovviamente non possiamo approfondire come vorremmo in ogni puntata e quindi anche oggi diamo spazio anche ad alcune questioni che magari abbiamo già attraversato e che purtroppo non siamo riuscite insomma a dire anche solo un decimo di tutto quello che noi e voi vorremmo tutti dire sulle questioni. Guarda che intro seria per una roba in cui adesso andiamo a parlare di come mettere il telefonino per farsi la foto alle tette. Avevo un problema di credibilità fino a 10 secondi fa, cioè, mi Sei riscattata, direi. scusate. Volevo Alla riscattarmi. grande proprio, alla grande. Vabbè, amiche, compagne, come andiamo col sexting? Ci sentiamo ferrate? Ci sentiamo ferrate stasera sul tema della serata? Io mi sento pronta ad ascoltare qualunque cosa, questo sì. Questo sì. No, allora, secondo me c'è un tema, no? Ed è vero che ne abbiamo anche già parlato, no? Ne abbiamo parlato con Slavina, ne abbiamo parlato di come questa quarantena stia muovendo il desiderio, il piacere, la sessualità e stia dando spazio a dei canali che normalmente usiamo come, non so come dire, come integrativi, nella migliore delle ipotesi. Non so, ad esempio, adesso non mi ricordo neanche più con chi, giuro non lo faccio per privacy, ma proprio perché non mi ricordo con chi, ma ad esempio una delle robe che ci si diceva è wow, questo è il momento di Tinder, perché almeno fai una sorta di scrematura e poi quando ci fanno uscire hai già fatto la scrematura, tipo. Sa che non rimane nessuno alla fine della quarantena. Sì, hai Sì, ragione, Ludo. forse la quarantena è troppo lunga e va a finire che, cioè, ne rimarrà Sì, e soltanto uno. anche ci dà la possibilità in realtà di parlare di uno di quegli spazi in cui la sessualità si muove come in altri, che è quello online, che spesso è stato considerato un po' come uno spazio di serie B, ma in qualche modo invece ci permette di vederlo con l'importanza che ha, che probabilmente ha sempre avuto, ma che magari rimaneva su questo un po' di stigma, un po' di tabù, e quindi anche ci permette di parlarne come un pezzo del desiderio, come uno spazio in cui possono scorrere desideri e sessualità come altri, e come in tutti gli spazi, appunto, ci permette di guardarlo da punti differenti, Sì, insomma. E quindi, insomma, per farvela breve, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto a una delle realtà più interessanti a Milano, su questo come su altri temi legati al piacere, di darci qualche consiglio proprio sul sexting, un po' perché veramente al giorno numero non so più quale, 38, 48, 108 della quarantena, abbiamo completamente finito le idee, un po' anche perché così, no, magari ci vengono nuove suggestioni. Quindi ora vi facciamo sentire un contributo che ci hanno mandato le ragazze di Uovo. Uovo è un sexy shop, un sex store che sta a Milano, ma che è anche uno spazio virtuale, sia un Uovo store, sia un canale Instagram molto attivo dove passano anche moltissimi contenuti. E quindi abbiamo chiesto alle ragazze di Uovo di dirci qualcosa a proposito di sexting. Quindi adesso vi facciamo dire delle cose interessanti dalle loro voci, noi prendiamo appunti e basta, ci ritroviamo tra poco. Va bene, ragazzi? A dopo. A tra poco. Ciao a tutti, sono Frida di Uovo. Per chi non lo conoscesse ancora, Uovo è uno store, un negozio con base a Milano, dedicato all'erotismo a 360 gradi. Ci piace definirlo un safe space, quindi un posto in città, un posto sicuro in città dove poter chiacchierare di sesso ed acquistare i sex toys più fighi dell'universo conosciuto. Oltre ad essere una realtà fisica, è anche uno studio, quindi da settembre scorso abbiamo inaugurato un nuovo studio in cui facciamo produzione di contenuti video che girano sui nostri canali social, principalmente Instagram, dove abbiamo una community molto affiatata di 45, mi pare, mila persone, and counting, e che cresce ogni giorno e soprattutto in questo periodo di vacanza, mi piace chiamarla così, è molto seguito sia dalle persone che da noi, nel senso che ogni giorno proponiamo contenuti informativi, divulgativi e anche per quanto riguarda la conoscenza dei prodotti, dei sex toys appunto. E un argomentone che ci chiedono veramente, veramente spesso, ultimamente, ormai da 3 settimane a questa parte, è il sexting. Quindi prodotti legati al sexting, come si fa a fare sexting, consigli, cosa non fare, e quindi volevo condividere con voi qualche consiglio semplice per l'approccio al sexting. Per chi non sa che cos'è il sexting, è una forma di sesso, seduzione, desiderio digitale. Quindi tutto quello che è l'universo erotico trasformato e veicolato dai nostri device tecnologici. E tu e noi e lei. A noi vorrei, non so che lei o no. Le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, vorrei. Sa che vorrei le mani, le sue, oh, poteva cadere, sai. Si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei che lei adesso sa che vorrei le mani, le sue, e poi un'altra volta le due. Vorrei per amore, per ridere, dipende. La regola numero uno, anche se nel sesso non ci sono regole, ma questa la vorrei sottolineare. Consiglio di fare sexting in modo safe, nel senso, se avete estrema fiducia dell'interlocutore, allora condividete anche i vostri dettagli personali come viso e tatuaggi che vi rendono riconoscibili. Se non avete piena fiducia del partner e se è uno sconosciuto o una sconosciuta, evitate di condividere pezzi di corpo che siano molto riconoscibili. Se l'interlocutore o voi stesse, voi stessi siete un po' più timidi o siete alle prime armi, iniziate a scrivere e buttate la conversazione magari condividendo, non lo so, un articolo che parla di sexting e iniziate la conversazione facendo un check con il vostro partner per capire che cosa pensa di questa cosa e magari poi potete proporgli di fare un test iniziando a scrivervi. E poi magari iniziate a mandare una foto, che non deve essere una foto esplicita, ma può essere anche semplicemente una foto di una parte del vostro corpo non sessuale. Un'altra cosa molto utile è avere un archivio. Quindi, quando ve la sentite, quando avete voglia, fatevi le foto e le salvate in una cartella vostra personale che, oltre a servire per il sexting, serve come aiuto a raggiungere un livello di accettazione e autostima verso il proprio corpo, che non è sempre scontato per tutti, e che nei giorni magari un po' più, dove ci sentiamo un po' più giù, ci aiuta a farci svoltare la giornata. Quindi quando avete un po' di tempo, e in questo momento di tempo penso che ne abbiamo tutti in abbondanza, iniziate a farvi, a sperimentare, a farvi delle foto, anche perché non esistono delle regole per farsi delle belle foto. Sicuramente l'angolazione aiuta, però è un gioco tra voi e la camera del vostro telefono. Eccoci, siamo tornate. Beh, grazie Frida e grazie Uovo per i consigli e grazie Ludo per la musica. Sì, infatti io volevo dire grazie mille Ludo che abbiamo la fortuna oggi di avere in diretta, che è colei che ci sta facendo sentire della musica bellissima in tutte queste puntate. Ma figuratevi, secondo me dobbiamo piuttosto ringraziare Patti Bravo perché questa canzone penso che sia una delle cose più erotiche al mondo. E se io Mamma. fossi un po' intonata, ora farei la strofa in cui dice le mani, ma ve lo risparmio, mi Fallo, Aria, accodo. adesso l'hai detto, lo fai, scusa. vado un attimo a schiarirmi la voce e poi torno. Faccio un gargarismo. Sì, ecco, insomma, così, questo pezzo ci sembrava perfetto per intervallare i contatti sul, scusatemi, i contatti, i consigli sul sexting delle ragazze di Uovo e di Frida. E quindi grazie, super grazie ancora. Ma noi, a proposito del sexting, siccome è vero che parlare, fare, raccontare di piacere, di sesso ci piace, ma c'è un'altra cosa che ci piace ancora di più, che sono i pipponi femministi. Direi proprio di sì, Decisamente. C'è un'altra cosa che avremmo di dire, vorremmo dire a questo proposito e lo facciamo dire dalla voce di Fede, Grazie, Fede. che non è in diretta con noi, ma è sempre nei nostri cuori, e dalle parole di Lori Penny, L'orizzonte del desiderio. La prima cosa da capire quando si parla di consenso è che il consenso non è in senso stretto una cosa. Non nello stesso modo in cui diciamo che il teletrasporto non è una cosa. Il consenso non è una cosa perché non è un oggetto, non si può possedere, non si può tenere in mano, non è un dono che può essere offerto e poi brutalmente requisito. Il consenso è uno stato dell'essere. Dare a qualcuno il proprio consenso dal punto di vista sessuale, politico e sociale è un po' come prestargli attenzione. È un processo continuo, è un'interazione tra due esseri umani. Credo che molti uomini e ragazzi non lo capiscano e credo che questa mancanza di comprensione causi traumi indicibili alle donne, agli uomini e a chi è stufo di quanto la sessualità umana possa ancora ferire. Lori Penny, L'orizzonte del desiderio. Eccoci tornate. Sì. Allora, scusate, sì, dobbiamo fare una cosa in diretta importantissima. Sì. Vai, Ari. Proviamo. Sembriamo delle pazze. Non ha funzionato. Ancora un po' di Avete sentito? Buon compleanno, Ari! Tanti auguri! Grazie! Allora, ho appena versato il mio bicchiere di brindisi collettivo, che se avete voglia di fare con me può essere di succo di frutta, di acqua, di tè caldo, di tisana, perché? Di qualunque cosa. Perché? Ari, perché? Perché i gusti sono vari. Ho capito, ma metticelo un vodka lemon, uno spritz. No, ma io sto bevendo un ottimo vino bianco frizzante, portato da, cioè, suggerito da un amico, e quindi però dico, chi ha voglia di partecipare al brindisi lo può fare in qualunque forma. Giusto, no, va bene, però mettiamocelo un vodka lemon. Mettiamocelo. Nell'elenco, quantomeno. Nelle possibilità, sì, scusate, no, certo. C'erano solo tisane e succhi di frutta. Non volevo essere normativa con l'alcol. No, hai ragione, però neanche al contrario. È vero. Allora, vodka lemon, martini con l'oliva, vodka Madonna, spumante. Stavi per dire vin brûlé. Questo bicchiere l'avevo anche promesso a quest'ora con un'amica Elena, per cui le mando un bacio, e con chiunque ha voglia, per tutti i non compleanni, per questi giorni, per farsi un brindisi a noi stesse. Cin cin. Va bene, e per continuare su questo tenore, adesso ci mandiamo un regalo. Un regalo che ci hanno fatto le nostre amatissime compagne di Bologna, un regalo che chi conosce Non Una di Meno ha già avuto il piacere di vedere, probabilmente sui nostri canali social, ma che questa sera vi riproponiamo direttamente in radio, con anche l'annunciazione che di regali ne abbiamo altri, ma questa sera vi mandiamo il primo. E cosa possiamo dire, ragazze? Perché è una grande sorpresa. È una grande sorpresa. È una maledetta quarantena. E ora ci ascoltiamo Atena e Panico e torniamo tra pochissimo. Vai. Ciao compagni, vi facciamo un regalino da una quarantena che, insomma, dopo 11 giorni iniziamo a sentire un po' le pesantezze. Voglia di abbracciarsi e poi vino bianco, lotta e rivoluzione. Ma adesso manco all'eroe che imbroglio era, maledetta quarantena. In bello e restiamo a casa se no, non mi sbatte, che devo fare? Se devo uscire perché devo lavorare, anche se mi fa male in cuore, se per errore lavorassi pure te. Se per riabbracciarti ancora quarantena, e sì che fretta c'era, se fermo amare solo me. Ti lavoro perché non ce n'è, pure sei costretta a lavorare da casa. La babysitter non c'è che mi può dare una mano con la prole se per errore aiutasse tutto. Tantissimo amore per Atena, cioè proprio non abbiamo altro da dire. Cuore infinito, ci ha fatto ballare qualche, non avrei detto settimana fa, ma temo che il senso del tempo sia un po' bislacco e forse era meno tempo. Ci ha fatto ballare una bellissima playlist, ci ha parlato di cosa vuol dire il lavoro creativo in questo periodo e poi ci regala questi momenti di gioia e di apertura, bellissimi, grazie. E ne abbiamo altri e ve li faremo sentire nel corso delle prossime settimane perché... Niente, noi siamo troppo felici. Siamo piene di regali. Sì. Lo avevamo detto che questa era la puntata delle dediche, dei regali, del situazionismo ed eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Abbiamo stappato bottiglie, vi abbiamo invitato a bere tisane, abbiamo cantato a scarquarciagola maledetta quarantena e basta. Fatto tintinnare del ghiaccio nel vodka lemon. Fatto tintinnare del ghiaccio nel vodka lemon e basta, cos'altro abbiamo da dire? Siamo noi, siamo qui. Siamo noi. Forse possiamo quasi introdurre il prossimo contributo che è stato mandato, che è molto intenso, molto bello. Sì, esatto, Andiamo, torniamo andiamo. un attimo come dire, nella decenza. Sì, allora è vero, abbiamo ricevuto all'ultimo istante questa sera un contributo molto bello che ci ha rese molto felici e contemporaneamente però una cosa molto intensa e anche un po' triste, vorrei dire. Decisamente. Credo che non sia un segreto per nessuno che purtroppo è venuto a mancare Sepúlveda insomma, non penso che ci sia bisogno di dire cose a riguardo, No, no? anche perché il contributo che abbiamo ricevuto, insomma, Esatto, parla. esatto. E allora, proprio per questo e per avere un momento di così, di un piccolo rito per salutarlo, le nostre compagne ci hanno regalato la lettura di una sua poesia, che è Le donne della mia generazione, una poesia che Sepúlveda ha scritto nel 99, e ve la facciamo sentire con un sacco di emozione. Ringraziamo Leandra per averla letta per noi e tutte le compagne che hanno pensato appunto di fare a noi e a tutte le persone che ci stanno ascoltando questo regalo. Quindi, Grazie mille, Leandra. esatto, Grazie mille, Leandra. grazie Ale e grazie Sepúlveda. Las mujeres de mi generación abrieron sus pétalos rebeldes, no de rosa, camelia, orquídea u otras yerbas, de saloncitos tristes, de casitas burguesas, de costumbres añejas, sino de yuyos peregrinos entre vientos. Las mujeres de mi generación florecieron en las calles y en las aulas argentinas, chilenas o uruguayas, supieron lo que tenían que saber para el saber glorioso de las mujeres de mi generación. Minifalderas en flor en los 70, las mujeres de mi generación no ocultaron ni las sombras de sus muslos, que fueron los de Tania, erotizando con el mayor de los calibres los caminos duros de la cita con la muerte. porque las mujeres de mi generación bebieron con ganas del vino de los vivos, acudieron a todas las llamadas y fueron dignidad en la derrota. En los cuarteles las llamaron putas y no las ofendieron, porque venían de un bosque de sinónimos alegres: minas, grelas, percantas, cabritas, minones, gurisas, garotas, jebas, cipotas, viejas, chavalas, señoritas, hasta que ellas mismas escribieron la palabra compañera en todas las espaldas y en los muros de todos los hoteles, porque las mujeres de mi generación nos marcaron con el fuego indeleble de sus uñas la verdad universal de sus derechos. Conocieron la cárcel y los golpes, habitaron en mil patrias y en ninguna. Lloraron a sus muertos y a los míos como suyos. Dieron calor al frío y al cansancio deseo, al agua sabor, y al fuego lo orientaron por un rumbo cierto. Las mujeres de mi generación parieron hijos eternos cantando Summertime, le dieron teta, fumaron marihuana en los descansos, danzaron lo mejor del vino y bebieron las mejores melodías. Porque las mujeres de mi generación nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos, compañeros, sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias. Fueron estudiantes, mineras, sindicalistas, obreras, artesanas, actrices, guerrilleras, hasta madres y parejas en los ratos libres de la resistencia. Porque las mujeres de mi generación solo respetaron los límites que superaban todas las fronteras. Internacionalistas del cariño, brigadistas del amor, comisarias del decir te quiero, milicianas de la caricia, entre batalla y batalla, entre amor y amor, entre fuego y fuego, las mujeres de mi generación lo dieron todo y dijeron que eso era apenas suficiente. Las declararon viudas en Córdoba, las vistieron de negro en Puerto Montt y San Pablo, y en Santiago, Buenos Aires o Montevideo fueron las únicas estrellas de la larga lucha clandestina. Sus canas no son canas, sino una forma de ser para el quehacer que las espera. Las arrugas que se asoman en sus rostros dicen: he reído y he llorado y volvería a hacerlo. Las mujeres de mi generación han ganado kilos de razones que se pegan en sus cuerpos, se mueven algo más lentas, cansadas de esperarnos en las metas. Escriben cartas que incendian las memorias, recuerdan aromas proscriptos y los cantan. Inventan cada día las palabras y con ellas nos empujan. Nombran las cosas y nos amueblan el mundo. Escriben verdades en la arena y las ofrendan al mar. Nos convocan y nos paren sobre la mesa dispuesta. Ellas dicen pan, trabajo, justicia, libertad, y la prudencia se transforma en vergüenza. Las mujeres de mi generación son como las barricadas, protegen y animan, dan confianza y suavizan el filo de la ira. Las mujeres de mi generación son como un puño cerrado que resguarda con violencia la ternura del mundo. Las mujeres de mi generación no gritan, porque ellas derrotaron al silencio. Si algo nos marca, son ellas. La identidad del siglo son ellas. Ellas, la fe de vuelta, el valor oculto de un panfleto, el beso clandestino, el retorno a todos los derechos, un tango en la serena soledad de un aeropuerto, un poema de Hellman escrito en una servilleta, Benedetti compartido en el planeta de un paraguas, los nombres de los amigos guardados con ramitas de lavanda, las cartas que hacen besar al cartero, las manos que sostienen los retratos de mis muertos, los elementos simples de los días que aterran al tirano, la compleja arquitectura de los sueños de tus nietos. Lo son todo y todo lo sostienen, porque viene con sus pasos y nos llega y nos sorprende.

poi la poesia letta da Ale è un'altra botta di emozione, ma completamente diversa. E va bene. Sì, se posso dire una cosa personale, rispecchia anche un po', come forse alcuni di noi, almeno è successo a me, ci sentiamo in questo periodo in cui a volte cioè, ci sono dei su e giù, almeno quantomeno a me, ma anche parlando con molte amiche e amici, il tema un po' delle intensità e leggerezze, di come alternarlo, di come viverlo è un po' sul piatto, non so voi. Decisamente, cioè ogni mattina non sai mai di che umore ti svegli e quante energie hai e cosa ti senti di fare, è davvero, davvero difficile. Sì, sì. Sì. Sì, pur sempre da un osservatorio privilegiato mi verrebbe da dire, però insomma assolutamente. Questa quarantena è complicata. E noi proviamo, sì, a tenerci compagnia e a, sì, darvi dei consigli sul sexting e a farvi cantare come delle pazze, ma anche piangere sulle poesie di Sepulveda. E a ballare nelle vostre cucine. Sì, così. Giriamo il coltello nella piaga come si dice? Otto volante delle emozioni. Esattamente. Forse su questo potremmo lanciare un altro pezzettino musicale, visto che questa sera siamo un po' più danzerecce del solito. Ho l'impressione, sì, che questa sera siamo più danzerecce non in termini qualitativi ma quantitativi, che stiamo mandando più pezzi, però non so se... Non credo. Allora, in verità il numero dei pezzi secondo me è più o meno sempre quello, me lo confermi Ludo? Ma sì, sono sempre cinque. Sì, cinque pezzi. E quindi è l'attitudine che ci rende più musicaline. È che abbiamo ridotto il pippone. Cioè, in genere ammorbiamo per un'ora e mezza con cinque pezzi, questa sera per una volta nella vita abbiamo mantenuto le promesse e vi ammorbiamo per un'ora sola, ma sempre con cinque pezzi. E posso fare su questo un grandissimo complimenti a Marta, che sta gestendo la tecnica della puntata insieme a mille altre cose, e questa sera sta anche provando un pochino a rispondere uno dei suggerimenti che ci avete dato, che è di provare a sfumare un po' canzone e voce, lo dico, tanto non è che abbiamo delle cose da nascondere, e quindi grazie Marta per gli esperimenti anche sul piano della tecnica, perché siccome ci stiamo tutti un po' inventando, grazie. Come ma veramente, sei davvero esperta adesso. Sì, figuratevi, appunto che sono bionda, già un miracolo che riesco a far partire le robe. E vi pregherei, per favore, siccome stasera ancora non ho fatto danni, ma come voi sapete almeno uno a sera lo faccio. Esageriamo, che poi faccio esplodere autistici, abbiamo un dominio. Peraltro l'ho detto, scusatemi, non abbiamo ancora ringraziato. È vero, la tecnica quella vera. La tecnica vera. Grazie Unit, grazie alla Club per darci la tecnica quella vera, non le pastrocchiate che facciamo noi col computer e il microfono. E anche grazie di insegnarci ad usarle, grazie a chi di noi impara e poi insegna, che è un processo virtuoso che insomma ci sta dando tanto, soprattutto sulla radio. Sì, sì, sì. E quindi facciamo andare l'ultimo pezzo della puntata? Direi che sì, che è un pezzo da cantare, da strillare quasi direi. Non ci provocare Ludo. Non ci provocare Ludo. Non l'avevamo ancora messa, vero? Questa di no. Non mi pare. La Loredana Nazionale non l'avevamo ancora messa e lo facciamo una grave sera. Mancanza. Lo facciamo questa sera, cerchiamo di rimediare. E la Luna bussò di Loredana Bertè. Per i giovani di oggi vivere come abbiamo vissuto noi, e mi dispiace molto perché perdono e hanno perso un sacco di cose belle che non torneranno più. Dopo aver pianto un Portavo le minigonne e mi dicevano: ma guarda che scandalo come vanno in giro le ragazze oggi. Quando portavo le maxigonne mi dicevano: questi sono pazzi, questi ragazzi si mascherano la mattina e la sera. E quindi o precedevo la moda oppure non me la filavo per niente, quindi facevo di testa mia. Come noi non li hanno più fatti, devo dire. Siamo stati una generazione bella, abbiamo vissuto un'epoca stupenda, irripetibile. Abbiamo visto i Beatles, siamo stati protagonisti dei più grossi movimenti. E era veramente un'altra vita. Allora, e la Luna Bussò, finalmente sei riuscita a realizzare un tuo sogno, no? Sì, di un paio. Ecco, un reggae, il primo reggae. Eccoci, siamo tornate in diretta, l'abbiamo tagliata un po' con l'accetta, scusate, ma il pezzo, come avete sentito, finiva con una chiacchiera di Loredana e ci piaceva farvela sentire, anche se poi appunto alla fine l'abbiamo tagliata un po' con l'accetta. Fa una certa, no? In linea con la cialtroneria un po' di questa sera. Esatto, lo avevo detto fin da subito che avrei fatto delle cazzate, infatti l'ho fatto. Va bene ragazze, siamo arrivate in fondo. Sì, direi che possiamo presentare l'ultima sorpresa di questa puntata. Sì. Una sorpresa per te, Ari. Scusate, okay. È molto divertente. Ari è già un po' provata dalle emozioni della giornata. In più, tipo io, mentre non siamo in diretta, le dico delle robe folli. Quella di scaramento in diretta. Dopo aver anticipato a voi, amiche in diretta, che sono una fontanella emotiva. Va bene, scusa, do l'interruzione. No, figurati. Sì, è una sorpresa per Ari, una sorpresa non molto sgamata, perché lei lo sa già benissimo, però anche questa è parte del casino. Lo sa già benissimo e in realtà ha anche un po' contribuito a farsela da sola perché io le ho chiesto: ma che c'è qualche canzone che ti piace, che così vorresti particolarmente sentire? E lì per sentirete caso la profondità temporale del mio compleanno, quando sentite uno scarto nella prima. No, ma in realtà i tuoi pezziari sono i migliori perché mi aspettavo, tu mi hai chiesto ma anche canzoni di cui mi vergogno, io ho detto sì assolutamente, certo, proprio quelle, e tu mi hai mandato dei pezzacci della Madonna mentre io ero lì che mettevo le peggio cagate, trash. Quindi i pezzi intelligenti e belli sono di Ari. Non credo. Va bene, l'avete capito che questa è la playlist di buon compleanno per Arianna. Che Ludo ha curato insieme a un sacco di altre playlist e la musica. L'invito di questa playlist è poi imparare tutti a stappare le bottiglie con i denti, Ludo. Non so se hai visto uno dei video che ti ho mandato, che sì, è una delle sfide che meravigliose dell'artista che sentirete. Peraltro perfettamente a tipo a buon compleanno. Stappa le bottiglie con i denti. Questi sono gli obiettivi della quarantena. Esatto. Va bene, siamo arrivati in fondo. Noi questa settimana non ci sentiamo mercoledì, perché mercoledì ci sarà l'assemblea cittadina di Non Una di Meno Milano, di cui prestissimo vi daremo tutte le informazioni, e torniamo in diretta invece venerdì. E basta. Grazie Marta, grazie Ludo, grazie a tutte e tutti. E ci sentiamo presto. Ludo, la vuoi lanciare tu? Lancia definitivamente la playlist. La playlist. Sì. Vai, Ludo. Come la lancio? 1, 2, 3, playlist. Buonanotte. No, buonanotte no, ma buona serata, divertitevi. Ciao, auguri Ari. Grazie. Una buonissima serata di compleanno. Buon non compleanno a tutti gli altri e buon compleanno a chi compie gli anni. Esatto. Ciao. Ciao. If you want to answer a couple of questions, mainly what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock floor. Let's see about that. Give us a ring ding ding. It's a beautiful day. Yeah, Todd, this is Liquid. Ring a ding a ding. I want those 3 grand band tickets, man. Alive. Alive. I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-word fool, Julie Newma. Here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way. But we did nothing. Blaring out the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie. Yeah, right. But we did nothing. Absolutely buckets that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? With my mind on my money and my money on mine. Yeah, yeah. Some men there wanted to hurt us. Another man said we weren't worth the fuss. You could see them all bitching by the bar. Above the fine line between the rich and the poor. Then Mike turned to me and said, what you think we got done, son? We found the conclusion. Come on Monday and maybe we'll fix it all up.

to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door. I do my hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? Hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Baby, how you feeling? lost my senses, spinning through the town. Sooner or later, the fever ends, and I wind up feeling down. Goes, yeah. Yeah, we should see how it goes. We should see how it goes, goes, goes, goes. So here's a shot to you, you made it this far. You know, I hope I showed you love, you know who we are. Now here's a shot to you, you made it this far. You know, I hope I showed you love, you know, I hope that we were so. You know, I gave it all I got, I know you know this very well, but now you're so here's a shot. No more, no, you don't get to call me now. Me vieron perderle al licor. Dicen por ahí que me debo cuidar, que se nota que escondo el dolor. Que ya tengo tiempo sin hablarte, me parece no soy la de antes. Les digo no me importan los días que pasen, se pone difícil mirar para adelante. Que me dijeron preguntas por mí por celos y conmigo pones pero pues y yo que esperaba. Más que el enredo en el que nos quedamos, pero cuando yo te vi pasar volví bajé la mirada. Les digo, yeah, yeah, yeah, yeah. Por favor ya cambia esa canción. Yeah, yeah, yeah, yeah. Diles que no me hablen del amor. Dile al locutor, hágame el favor. Por favor ya cambia esa canción. Dile al locutor, hágame el favor. Diles que no me hablen del amor. Yo no quiero que me hablen de amor ni tampoco de algún sentimiento. Al DJ que ponga otra canción, que esta noche ando en busca de entretenimiento. Si tú quieres nos vamos de aquí y escondidos los dos pasamos el tiempo. Camina, ven, puedo enseñarte cómo se vive el momento. Y dice así: ven, ven, ven, si tú quieres. No sufra por amor, que de eso nadie se muere. Yo te llevo pa' mi cama si tú quieres. Últimamente no creo a mujeres. Ven, ven, ven, si tú quieres. No sufra por amor, que de eso nadie se muere. Y yo te llevo pa' mi cama si tú quieres. Aunque últimamente no creo a mujeres. Yeah, yeah, yeah, yeah. Por favor ya cambia esa canción. Yeah, yeah, yeah, yeah. Diles que no me hablen del amor. Dile al locutor, hágame el favor. Por favor ya cambia esa canción. Dile al locutor, hágame el favor. Diles que no me hablen del amor. Otro tema, esa fue nuestra canción y cuando lo oigo recuerdo se fue con ella. Esa me la dedico con palabras de amor, toqueme ya otro tema. Esa fue nuestra canción y cuando lo oigo recuerdo se fue con ella. Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambie esa canción. Dile al locutor, hágame el favor, diles que no me hablen del amor. No me hablen del amor.

spalle gelosia, coca zero caloria, conoscersi ed appartenersi, pizza al trancio, anestesia, fiori arancio, vuccilia, e inventarsi una bugia per rimanere soli, e se magari l'autunno è soltanto ai 501 rotti sui ginocchi, ricorda queste notti, siamo come lentiggini, impermeabili alla pioggia. E se magari l'autunno è soltanto un ideale da difendere, come i tuoi 501 rotti sui ginocchi, ricorda queste notti, siamo come lentiggini, impermeabili alla pioggia, biciclette, nostalgia, rose gialle, gelosia. Che poi sono gli anni di mio papà. Aveva gli occhi tristi e macchina a battisti. Guidare verso Jesolo, le mani sul volante, erano grandi come le zampe di un leone. Parlare, bere birra fino alla mattina, abbiamo un'anima latina, sempre che abbiamo un'anima. Without you, and it's breaking my heart. visite aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la faute exacte. Je cherche en vain le mot exact. Je chante pour les transistes le récit de l'étrange histoire de mes anneaux transitoires, de belles poitrines qui t'aiment. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavot sur les pavés de l'âme amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prise à tout hasard. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont parlé. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'ai